Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Martedì 9 dicembre, si avvicina il Natale, clima consumi con qualche preoccupazione in più degli altri anni. Oggi le borse, abbiamo sentito, hanno un po' festeggiato la riapertura della settimana per i piani di intervento preannunciato dagli Stati Uniti e dagli altri paesi, ma sotto sullo sfondo resta comunque la crisi economica, le difficoltà, le prospettive economiche. Come rispondono gli italiani a queste difficoltà economiche? Oggi ne parliamo con Ivo Diamanti. Buongiorno Diamanti. Buongiorno. Ivo buongiorno. Diamanti è professore di scienza politica alla Facoltà di Sociologia di Urbino, insegna anche a Parigi, è commentatore di Repubblica, è coordinatore, direttore scientifico di Demos, che realizza periodicamente delle indagini sui comportamenti, sui sentimenti, sulle abitudini degli italiani. Una delle ultime indagini è stata pubblicata proprio nei giorni scorsi, venerdì, su Repubblica c'era anche un articolo di commento appunto di Diamanti. È sempre venerdì è stata presentata l'indagine del Censis, l'indagine annuale dell'Istituto di Giuseppe De Rita, dove veniva messo in evidenza appunto come la crisi sia uno dei fattori più forti di preoccupazione. Però mi sembra, e qui chiedo subito a Diamanti se è d'accordo, che entrambe le indagini dicono c'è preoccupazione ma non c'è panico, c'è anche sullo sfondo una certa fiducia nel futuro. Ivo Diamanti. Meglio, la fiducia nel futuro c'è una differenza, almeno secondo il Censis il futuro è comunque guardato con gli italiani con fiducia, mentre secondo noi, secondo me, un po' di meno, che però su questo concordo non significa panico, anche perché da un po' di tempo, ormai da un po' di anni, che le indagini che vengono fatte mostrano, come dire, una certa sfiducia nel futuro, per cui non è una novità. Diciamo anzi che il basso grado di fiducia nel futuro è diventato quasi un atteggiamento che spinge gli italiani ad adattarsi. Questa mi pareva un po' la caratteristica principale, l'aspetto principale che emergeva da questa indagine, una sorta di adattamento quasi psicologico a una sfiducia che già è stata metabolizzata e ha prodotto dei mutamenti sul piano dei comportamenti. Però d'altra parte è vero, gli italiani hanno una loro storica, quasi biografica, capacità di adattarsi. L'arte di adattarsi continua ad essere il tratto che secondo gli italiani stessi li distingue rispetto agli altri paesi. Una certa misura non è che questo sia l'ottimismo della serie, poi alla fine noi ce la caviamo, però ci sono margini ancora di adattamento, ci sono margini di modificazione dei nostri comportamenti e dei nostri sentimenti. Ecco, ricordo gli ascoltatori, il numero verde 800 24 0024, quindi una capacità di adattamento che però non è rassegnazione, è un adattamento che vuol dire che in fondo sì, ce la caviamo facendo qualcosa, il classico ottimismo della volontà che si sposa al pessimismo della ragione, forse un pessimismo della ragione che in questa fase è dettato più dall'esterno, dal fatto che la crisi sia una crisi che parte da lontano, che arriva da altri lidi, che ha fatto poco per entrare in questa crisi, ecco, e si associa forse anche, chiedo a Diamanti, a una certa sfiducia verso la politica, verso la possibilità che la politica possa risolvere i problemi e quindi la volontà di fare un po' da sé. Anche questo è un tratto però quasi della biografia sociale degli italiani. Gli italiani hanno un loro sentimento nei confronti della politica che è di disincanto e di distacco, anche nei tempi migliori, ammesso che ci siano stati, cioè quelli della cosiddetta Prima Repubblica o della fase della ricostruzione tra gli anni 50 e 60, gli italiani vedevano comunque la fiducia, si vedevano la politica come qualcosa di lontano, di altro da sé, così come lo Stato, le istituzioni. E hanno fatto da sempre molto affidamento nel proprio contesto sociale, nel proprio contesto locale, da cui quella che è un apparente paradosso, ancora oggi la maggioranza degli italiani dicono che le cose, anzi a maggior ragione oggi, le cose vanno male, che non andranno meglio nel futuro, però personalmente quasi 8 su 10 si dicono si dicono felici, perché nonostante tutto investono nel loro piccolo contesto familiare, sociale, amicale, locale. Peraltro però bisogna tener conto, il 40% degli italiani dicono nell'ultimo anno di aver ridotto i consumi, il 25% di aver qualcuno in famiglia che ha perduto il lavoro oppure che è in cassa integrazione. Diciamo che questi elementi di seria e forte preoccupazione non vengono solo mutuati dall'esterno, fino a un anno e mezzo fa venivano mutuati dall'esterno, cioè i messaggi che arrivavano dicevano che le cose stavano peggiorando e questo, come dire, veniva metabolizzato. Adesso si sentono colpiti nel loro privato e anche quindi nel loro contesto e da questo punto di vista, come dire, si difendono. Ecco, in questo senso funzionano ancora gli ammortizzatori più che sociali personali, la famiglia è ancora un grande ammortizzatore delle crisi esterne. Assolutamente sì, la famiglia e la rete locale, la rete amicale. Dentro la famiglia, peraltro, c'è questa molla che è meno flessibile di un tempo, che è il rapporto intergenerazionale. Uno degli elementi che spaventa, preoccupa maggiormente gli italiani è il futuro dei figli, il futuro delle giovani generazioni. Ormai 8 su 10 gli italiani dicono, mi pare ragionevolmente, che i figli i più giovani a fatica raggiungeranno e ripeteranno le stesse posizioni degli adulti. E d'altra parte appunto, questo è ragionevole per due ragioni: uno, perché la generazione mia, dei genitori, insomma la nostra, immagino, direttore, ha raggiunto comunque livelli di vita e anche una posizione sociale che è difficilmente, non dico ripetibile, ma certamente superabile, per cui c'è questa ragionevolezza, ma c'è anche, come dire, un certo grado di sfiducia. Tengo anche a sottolineare che è cambiato un po' il punto di riferimento sotto il profilo dei valori e delle aspettative. Un tempo, cioè, gli italiani si sono via via abituati a una stabilità di futuro, e invece noi viviamo in tempi di instabilità. I giovani sono sicuramente cresciuti in un contesto di flessibilità, che soprattutto in certe aree del paese peraltro di fatto è sempre stata molto elevata anche nei comportamenti economici, ma, come dire, una flessibilità senza futuro diventa precarietà psicologica anzitutto. Questo mi pare colpisca molto gli italiani, un certo grado di paura per i figli. Tanto più forte proprio per quello che diceva lei, perché la famiglia continua ad essere il principale ammortizzatore sociale, più di qualsiasi ammortizzatore posto in atto dallo Stato e dal sistema pubblico, la flexibility cosiddetta, insomma i sistemi di protezione fondati su una flessibilità e che garantiscono la flessibilità in Italia è sempre stata garantita dalla famiglia. Se colpisci quella, qui generi, non dico panico, ma preoccupazione seria. Certo, la preoccupazione sui figli penso che sia molto diffusa, appunto, data la situazione economica. Sentirei Elisa da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo intervenire in questo argomento dicendo che forse gli italiani si spera che pensino un pochino a questo consumismo un po' eccessivo, che si ridimensioni anche un po', a fare degli acquisti anche un pochino più intelligenti su beni veramente essenziali. Perché in questi ultimi anni abbiamo vissuto con, per esempio, il vestiario, insomma, beni non indispensabili che si sono triplicati anche i prezzi, quindi si spera anche un ridimensionamento anche sui prezzi stessi. La ringrazio, indubbiamente il richiamo ai consumi intelligenti non può essere che condiviso, non dimentichiamo però che consumare vuol dire anche permettere di produrre, produrre vuol dire avere dei posti di lavoro, avere delle aziende che producono il tessile e abbigliamento, uno dei punti di forza dell'Italia, e certamente se le aziende per crescere devono poter produrre, per produrre ci vuole qualcuno che consumi, magari non solo in Italia, le aziende sono molto orientate all'estero. Ivo Diamanti. Sì, è vero che... Devo dire che anche negli stili di consumo sono state acquisite ormai dagli italiani delle modalità abbastanza assimilate, cioè una certa attenzione alla qualità della vita e anche alla qualità del consumo non è messa in discussione. È vero, come diceva l'ascoltatrice, peraltro, che si agisce molto sulla quantità. Ad esempio nel consumo alimentare pare abbastanza evidente che per la spesa corrente ci si affidi molto agli hard discount, alle catene che praticano prezzi molto molto bassi, mentre non si rinuncia a quello specifico consumo alimentare, ma anche nell'abbigliamento di marca oppure di qualità. Cioè, di fatto non so se sia consumo intelligente, il consumo necessario, che però, come dire, caratterizza una società che ormai ha assimilato una domanda di soddisfazione che non viene messa in discussione. Ecco, un solo appunto: noi stiamo parlando genericamente degli italiani, in realtà c'è una quota di italiani che di questa competizione sono i perdenti, per i quali le cose vanno davvero male, cioè gli atteggiamenti sono molto estremizzati in alcuni settori della società, sono poi quelli dove noi vediamo la perdita del posto del lavoro, la precarietà sono più elevate, sono quelli di età centrale, persone soprattutto del mezzogiorno, ma anche del nord-ovest, abbiamo visto che sono una zona evidentemente soprattutto nelle realtà metropolitane, con minor livello di istruzione, con minore quindi risorse da spendere sul mercato. Per questi direi il pessimismo è alto e molto giustificato. Grazie Ivo Diamanti. Stiamo parlando con Ivo Diamanti, docente di scienza politica alla Facoltà di Sociologia di Urbino, commentatore di Repubblica, responsabile scientifico di Demos, una società di sondaggi sulle caratteristiche, sulla dinamica della società italiana. Sentirei un ascoltatore, Andrea da Bergamo. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Ma allora, complimenti per la trasmissione intanto. Volevo anzitutto mettere in evidenza che quello che il dottore dice è sicuramente la fotografia del reale. La cosa che però più mi stupisce è il voler pensare che il futuro sia basato su quello che è l'attuale, cioè in questo modo si eliminano tutti quegli ambiti di sogno, di volontà di crescere, di credere comunque nel futuro. Io mi occupo di motivazione aziendale, sto per entrare in un'azienda tra un quarto d'ora proprio per infondere nelle persone quello spirito di fiducia e di speranza e di atteggiamento positivo nei riguardi delle cose della vita, anche di questa crisi che io considero esattamente un'opportunità per migliorare i processi e per inventarci qualcosa di nuovo. Ecco, non crede che forse sarebbe il caso di manifestare più ottimismo, ma non semplicistico, ecco, un ottimismo basato sulle vere potenzialità dell'essere umano, quindi sulle proprie idee, sulla propria capacità di sviluppo. Grazie, sì, indubbiamente la fiducia è alla base appunto della crescita, però la realtà è anche quella che è, bisogna anche tenerne conto, dire com'è, e la realtà è quella che è, non è quella che noi vorremmo che fosse, anche se noi potremmo tendere a fare una società certamente diversa, migliore, più equa, più in crescita. Ivo Diamanti. Sì, è vero, dovremmo, ma non è, cioè, anzi direi che parecchi anni che ormai c'è questo ciclo negativo della fiducia che in Italia si parla di declino, e si parla di declino e di sfiducia anche da quando le condizioni generali sia interne sia internazionali erano molto migliori rispetto ad ora. Paradossalmente questo essersi preparati prima che la crisi davvero arrivasse per certi versi aiuta, tant'è vero che una delle ragioni per cui oggi non c'è panico è anche per questo, è arrivata una crisi largamente annunciata anche quando ancora non c'era. Ecco, in questo c'è anche sul fronte degli italiani il fatto che la politica viene un po' esclusa tra le responsabilità della crisi. Alla fine del suo articolo di venerdì si diceva che la politica resta estranea, le preoccupazioni economiche sembrano oscurare la politica, ritenuta impotente e quindi estranea, o peggio, incolpevole, anzi innocente. Noi veniamo da un lungo ciclo anche in questo caso negativo di percezione della politica e del rapporto con la politica. Un ciclo definito non a caso antipolitico e quindi fondato sulla sfiducia. Peraltro, ma questo è anche, come dire, frutto di azione politica, direi che questo è anche frutto degli attori politici di questo stesso governo, in una fase come questa ciò che avviene viene percepito come esterno ed estraneo alla politica stessa, cioè viene percepito come qualcosa che non nasce in Italia e che quindi riguarda l'Italia, ma rispetto a cui l'Italia ha responsabilità limitate. Lo scenario economico e finanziario investe negli occhi non solo degli operatori ma anche degli italiani, gli Stati Uniti anzitutto, l'instabilità politica internazionale giunge da scenari che non sono a noi vicinissimi, il Medio Oriente, l'Oriente estremo, in una certa misura c'è quasi una sorta di deresponsabilizzazione, questo tutto sommato piace agli italiani perché asseconda il nostro malvezzo di pensarci impotenti, per cui siamo antipolitici, ma tanto chi se ne frega, la politica poco conta. Grazie, sentirei Andrea da Livorno, buongiorno. Sì, buongiorno, io volevo porre una domanda al professore che si articola su tre quesiti, cioè è un mio parere, così vorrei sentire la sua opinione. Dunque, a mio modo di vedere, innanzitutto l'economia è un bene a finire, non è un bene certo a durare, nel senso di materia prima e di ricerche e cose del genere. Alla fine del Novecento eravamo meno di un miliardo, negli ultimi 108 anni siamo 6 miliardi e 800 milioni, quindi dobbiamo dare delle risposte a queste persone a questo incremento demografico, e se le regole del mercato, che purché anch'io sono più tendenzialmente uno che vede un mercato che sia libero, però secondo me ci vuole anche una riregolamentazione controllata. Quanto può durare libera volpe e libero pollaio, tanto per capire? Grazie. Professor Diamanti. Beh, la demografia ha un peso notevole nei comportamenti degli italiani e teniamo conto che noi siamo in controtendenza, noi siamo una società demograficamente in declino, parlo degli italiani, cioè noi siamo arrivati da una lunga fase di crescita e oggi siamo in una fase di decrescita che ha due conseguenze, ha avuto fino ad oggi due conseguenze, da un lato che siamo una società senza figli o con pochi figli e che quindi carica molte aspettative, molte più aspettative nei confronti dei figli, e dall'altra siamo una società che invece si è molto sviluppata ed è molto cresciuta e quindi ha dovuto ricorrere in misura crescente al contributo degli immigrati. Da questo punto di vista, facendo tesoro di quanto avviene anche in altri contesti, in altre società, dovremmo pensarci in modo non separato, dovremmo pensare in modo non separato queste due tendenze. Spesso ci pensiamo appunto come una società in declino, anche demografico, in realtà dovremmo pensare al fatto che gli immigrati stessi ci hanno permesso di restare una società stabile e immaginarci non assediati ma integrando come una società che si sta allargando. Per cui sì, è vero, siamo una società demograficamente esplosiva a livello mondiale, a livello nazionale siamo una società in equilibrio proprio perché noi dovremmo pensare agli altri probabilmente non più come stranieri ma come parte del nostro contesto. Un'ultima annotazione, un ascoltatore ci manda un sms dicendo: già ti ho parlato di famiglia, ma in Italia la famiglia non è avvantaggiata, anzi è sfavorita, forse ci vorrebbe qualche misura anche fiscale di sostegno, professor Diamanti. Assolutamente sì, noi siamo un paese nel quale c'è la retorica della famiglia e allo stesso tempo sembra proprio che si applichi alla famiglia lo stesso modello, la stessa filosofia che la famiglia applica a se stessa, cioè la famiglia regge perché è un ammortizzatore sociale e la chiave di volta del nostro fatelo da voi, e sembra che da sotto questo profilo l'azione della politica si adegui a questa regola, fatelo da voi, magari sarebbe meglio che venisse di fatto non soltanto a parole ma anche nei fatti sostenuta nel rapporto con i figli nel futuro, e che non venisse applicata e scaricata sulla famiglia ogni compito di ammortizzazione dal punto di vista del lavoro, di inserimento sul mercato del lavoro, di educazione, di sostegno, di assistenza degli anziani e quant'altro. E questo dovrebbe essere appunto un ruolo di uno Stato, aperto, di uno Stato che fa le regole, ma aiuta anche appunto le strutture basilari della società a crescere. Io devo fermarmi qui, ringrazio Ivo Diamanti, docente di scienze politiche a Urbino, commentatore di Repubblica, di essere stato con noi, aiutandoci a capire come cambiamo, come stiamo cambiando noi italiani. Ringrazio Carmelo Varicella in regia, quanti ci hanno ascoltato. L'appuntamento è per domani.